e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti da Cibus, la più importante manifestazione dedicata al food italiano a livello nazionale ed estero. Se siete nei paraggi fate un salto, venite a trovarci, lo stand di Radio 24 è al padiglione 7, stand C121, vi ho dato tutte le coordinate, vi dico anche che domani ci sarà con voi Deborah, ma noi non perdiamo le nostre buone abitudini e andiamo alla nostra rassegna stampa. E partiamo dai denari. Quante volte da questi microfoni con Deborah e con i nostri esperti vi abbiamo messo in guardia dalla scelta di conservare i risparmi sotto il materasso. I motivi sono tanti e uno in più potrebbe darvelo la storia di questo signore di Fiumicino, vicino a Roma, la notizia di ieri. Bene, è partito per l'estero per lavoro, nascondendo circa 300.000 euro in contanti e gioielli in un contenitore sotto il suo materasso e al ritorno purtroppo ha trovato ad aspettarlo solo il materasso. Le indagini della polizia, per fortuna, hanno consentito di ritrovare gran parte della refurtiva, di individuare l'autore del furto, tra l'altro amico della figlia della vittima. 4 persone sono state denunciate complessivamente. Questa è una storia simbolica per noi di Cuore Denari, che con Deborah non ci stancheremo mai di darvi consigli sull'uso corretto del contante, sugli strumenti giusti per gestire i risparmi di una vita. Li trovate naturalmente tutti sul nostro sito, in particolare nella sezione dedicata alla rubrica Investire Informati, che torna puntuale come ogni settimana nella puntata di giovedì, così sul materasso potremo limitarci a riposare e a dormire sonni tranquilli. Passiamo al lavoro e a uno strumento sempre più importante per la ricerca di nuove opportunità. Sto parlando di LinkedIn, il social network dedicato al lavoro e alle imprese, che ha raggiunto, pensate, 9 milioni di iscritti in Italia, come annunciato proprio ieri da una nota. La piattaforma è nata 13 anni fa e pensate che nel mondo si iscrivono a LinkedIn 2 utenti al secondo. Iscriversi e prendere confidenza con questo social network è un consiglio che gli esperti danno a tutti coloro che cercano lavoro, ma anche a chi un lavoro ce l'ha già. Si carica online il proprio curriculum, si entra in una comunità professionale, ci si conferma a vicenda le proprie competenze e capacità e voilà. Sull'uso corretto di questo strumento torneremo presto, magari anche con un approfondimento di Cuore e Denari. E infine, sempre parlando di lavoro e professioni, ma iniziando anche ad avvicinarci ai temi del salone che ci ospita qui a Parma, vi segnalo qualche numero diffuso ieri su una delle nuove professioni legate al cibo. Pensate che ogni giorno 500 italiani si fanno fare la spesa da un personal shopper. Lo evidenzia una ricerca di Supermercato 24, portale italiano della consegna della spesa a casa in un'ora, presentata ieri proprio qui a Cibus. È un fenomeno che cresce sempre di più, con una concentrazione maggiore naturalmente nei grandi centri come Roma e Milano, seguite da Bologna e Torino. Bene, il 95% delle spese viene fatte consegnate in giornata e chi si rivolge ad un servizio di questo tipo lo fa soprattutto, e naturalmente rileva la ricerca, per mancanza di tempo a fare la spesa di persona. Anche noi non perdiamo tempo e passiamo anche alle notizie di Cuore. E per la rassegna stampa di Cuore oggi partiamo segnalandovi un progetto che è partito in questi giorni e che ha a cuore la salute delle mamme e dei bambini. È infatti iniziata una campagna informativa sull'importanza dello iodio in gravidanza e nei bambini. Lo iodio è, lo abbiamo sentito raccontare tante volte dai nostri esperti, un micronutriente indispensabile per garantire il buon funzionamento della tiroide e soprattutto assicurare anche la crescita e lo sviluppo del feto. Ecco perché non può mancare nella dieta delle mamme in gravidanza e nei bambini. E a proposito dei bambini, dei più piccoli in particolare, una recente indagine condotta in Italia sui bimbi in età scolare ha mostrato che solo in 3 regioni si raggiunge un adeguato apporto di iodio. Ma allora come ottenere la quantità di iodio necessaria al nostro organismo? Anche in questo caso la prevenzione parte dalla tavola. Tra gli alimenti che non devono mancare sulla nostra tavola, i prodotti ittici, in particolare molluschi e crostacei, formaggi stagionati, uova e alghe, che sono la verdura del mare. Dall'America arriva invece una hit parade dei paesi più dormiglioni. Lo studio effettuato attraverso un'applicazione creata dai ricercatori dell'Università del Michigan evidenzia che a dormire più di tutti nel mondo sono gli olandesi, mentre gli abitanti di Singapore e del Giappone sono quelli che dormono meno. Gli italiani, con le loro 7 ore e 53 minuti in media, passati tra le braccia di Morfeo, sono comunque nella top 10 dei più dormiglioni, tranne quei 12 milioni che si trovano a fare naturalmente i conti con l'insonnia. E allora, per evitare le notti bianche, vi consigliamo sempre di riascoltare le puntate che abbiamo dedicato al tema. Nel frattempo vi facciamo un piccolo bigino. Allora, lasciate perdere le pecore e invece cercate di scegliere un rituale della buonanotte che aiuti a sciogliere le tensioni. Cercate di dormire bene le prime 4 ore, sono le più importanti, senza avere l'ossessione delle 8 ore. Andare a letto e svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora, questo sicuramente è un consiglio che fa parte delle regole dell'igiene del sonno, come quello di evitare di fare sport prima di dormire, di lavorare fino a tarda notte con PC e tablet. Ma se tutto questo non funziona, a metà notte l'occhio si spalanca, meglio alzarsi dal letto e fare altro. E infine chiudiamo la rassegna con una curiosità utile a chi corre, ma anche a chi cammina molto, magari proprio in occasione di una fiera. C'è un semplice e soprattutto poco costoso rimedio contro le vesciche ai piedi. Secondo la Stanford University Medical Center, applicare il nastro adesivo di carta sui piedi, chi non ne possiede un rotolino, eviterebbe la comparsa di vesciche. Naturalmente dobbiamo applicarlo là dove la scarpa tocca, nel punto strategico. Provatelo e poi mi direte. In attesa però di utilizzare questo rimedio, il consiglio è anche di controllare come si appoggia il piede, se verso l'interno o l'esterno, perché un'abitudine errata può favorire il traumatismo e quindi la comparsa di vesciche. Su nelle nostre pagine, tra l'altro, potete trovare l'intervista su come scegliere la scarpa giusta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. E allora siamo a Parma, dopo Milano, Parma. A più di un anno dall'inaugurazione di Expo 2015, Parma raccoglie, per così dire, il testimone e torna a parlare di cibo. E lo fa con Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione, in programma fino a giovedì. Stiamo trasmettendo proprio da Cibus. E questa è indubbiamente un'occasione ghiotta in cui Cuore Denari non poteva mancare. Vi do ancora le coordinate per raggiungerci. Siamo al padiglione 7, stand C121. Vi aspettiamo. Ma come sempre, come al solito, sono sempre validi il nostro numero verde, WhatsApp e email. E ha trovato il nostro stand il nostro primo ospite, il dottor Massimo Gualerzi, che è già in studio con noi. Buongiorno, dottor Gualerzi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, cardiologo, esperto in stile di vita, direttore sanitario di Salso Maggiore Tabbiano, autore di un libro di cui parleremo nel corso della trasmissione che ho qua vicino a me, La Dieta Super Salute. Grazie per essere con noi. Grazie a tutti voi. Generalmente, dottor Gualerzi, le fiere sono un po' l'occasione per fare un po' il punto, no, della situazione per quanto riguarda l'alimentazione, e l'occasione anche per capire dove siamo e soprattutto dove stiamo andando. Secondo il rapporto di Coldiretti, presentato proprio qui ieri, gli italiani hanno fatto una svolta green, puntando su cibi biologici, prodotti a chilometri zero. Lei si è accorto di questo cambiamento dal suo osservatorio privilegiato, dottor Gualerzi? Siamo più attenti, siamo diventati più educati ed informati? Assolutamente sì, tra l'altro la gente chiede sempre di più che di essere curata attraverso il cibo, e quindi il cibo sta prendendo veramente la sua vera connotazione, quella di terapia, perché un cibo buono, un cibo sano, un cibo naturale può essere un ottimo farmaco sia in prevenzione che in terapia molto spesso. E lei ha sottolineato buono, perché si può anche mangiare bene per stare bene, senza inutili privazioni. Direi che è fondamentale, perché le privazioni non possono alla essere lunga portate non pagano. E quindi bisogna sempre passare attraverso il buono e il gusto. Allora, su come è cambiato anche il nostro rapporto con il cibo in questi ultimi anni, vogliamo parlarne con la professoressa Maura Franchi, che è sociologa dei consumi all'Università di Parma. Professoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Intanto io chiedo agli ascoltatori di raccontarci, potete mandarci un WhatsApp, potete scriverci un messaggio al 349-238-6666, potete chiamarci, e questo ci fa sempre molto piacere, di raccontarci come è cambiato il vostro rapporto col cibo, quali abitudini avete intrapreso, quali avete abbandonato, quali alimenti avete ridotto, di quali invece vi siete accorti, no, dei benefici. Quindi raccontateci, dateci un po' il polso della situazione, perché le tendenze alimentari, anche ancora più di altri consumi, esprimono i cambiamenti sociali. Insomma, professoressa Franchi, dimmi come mangi, cosa mangi e ti dirò che sei. Questa è una lettura che si può fare anche a livello macro, quindi a livello sociologico. Poi noi col dottor Gualerzi scenderemo nel particolare, passeremo dal macro al micro. Sì, io credo che sia così. L'alimentazione non è mai stata tanto importante come in questo tempo. Per diverse ragioni, intanto perché c'è una maggiore consapevolezza di ciò che mettiamo nel piatto, ma c'è però anche il gusto dell'alimentazione del cibo. Il cibo media anche dimensioni di socialità, e questa è una cosa importante, perché il piacere del cibo è innanzitutto il piacere di convivialità e di condivisione. Quindi il cibo entra molto di più nella nostra vita quotidiana, anche se cuciniamo meno complessivamente, per cui anche questo aspetto non è contraddittorio come talvolta sembra, perché cerchiamo di coniugare salute, piacere, gusto e anche comodità, perché credo che le nostre vite sono mobili, viviamo molto tempo fuori casa, spendiamo meno tempo per cucinare, questa è una tendenza che considero irreversibile, anche se poi cuciniamo nei momenti liberi come attività ludica, anche se ci sono quantità di trasmissione di cucina. Ecco, ma fondamentalmente il cibo è molto presente nella nostra testa e nella nostra vita, e lo è in molte occasioni per molte funzioni. Professoressa, ci fermiamo per dare la linea alle informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo e le chiederei già di prepararci una sorta di borsino, sento già la mancanza di Debora, gli alimenti che salgono, quelli che scendono, quelli che stanno un po' a metà, un su e giù della borsa dei nostri gusti sui prodotti, a tra poco. Cuore e denari. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Eccoci qua, siamo tornati, siamo a Cibus, stiamo riflettendo su come sono cambiate le nostre abitudini alimentari. In linea abbiamo il piacere di avere la professoressa Maura Franchi, sociologa dei consumi dell'Università di Parma, in studio il dottor Gualerzi. Professoressa Franchi, ci aiuta a fare una sorta di borsino di chi va su e chi va giù, la dieta mediterranea, sì, che posto occupa, quali sono gli alimenti, sì, che piacciono e quali quelli che sono un po' caduti, abbandonati, hanno perso un po' di, sì, appeal? Sì, un po' di appeal, certo, proprio così, ed è interessante capirlo, perché su questo sarebbe interessante anche confrontarci con il medico, perché anche lui immagino avrà un parere in proposito. Allora, quello che vediamo è la professoressa Franchi, e facendo la professoressa, dottor Gualerzi interroga, e giustamente, sì, vede, no, e quindi la chiama, sono, si prepari, dottor Gualerzi. Perché sono personalmente interessata ad avere un parere di, certo, un medico in proposito. Ad esempio, uno dei dati più sorprendenti e più rilevanti è che aumenta del 25% in un anno, quindi sì, un aumento davvero importante. Significativo. Il consumo di biscotti senza glutine. Allora, qui c'è tutto questo tema della celiachia e del gluten free. Allora, della sensibilità, credo, al glutine, che è un'entità clinica differente, sì, dal rispetto, sì, alla celiachia. In un caso parliamo di un'intolleranza permanente, nell'altro di una sensibilità. Sono due situazioni diverse che poi commenteremo col dottor Gualerzi, esatto, anche perché ci sarà un bellissimo convegno a Cibus proprio, esatto, su questo. Sensibilità, però c'è un effetto moda in questo elemento, certo, di sensibilità, per cui è difficile immaginare che il 25% dell'aumento del consumo di biscotti senza glutine corrisponda a problemi reali. Ecco, allora, in questo effetto di moda c'è la possibilità di deformazioni, certo, e anche di un'informazione non corretta che passa alle persone. L'altro aspetto, il 23% di aumento delle bevande vegetali e un calo di circa il 10% del latte fresco. Ecco, vedete, in questi dati che sono così rilevanti, non sono, come dire, oscillazioni piccole come in altri casi in passato, in altri anni avevamo visto, come dire, si capisce tutto l'effetto di moda e di anche l'importanza della comunicazione che nel tempo di internet, nel tempo dei social, in qualche modo ci influenza e influenza poi le nostre scelte, i nostri comportamenti. Infatti, professoressa, lei ha citato internet, la rete naturalmente condiziona e la rete unisce, ci si passano, nella rete si trovano tendenze, si confrontano ricette, forum, insomma si parla molto di cibo anche nella rete. Dottor Gualerzi, un commento prima di salutare la professoressa Franchi a questo borsino che mette in evidenza un aumento del consumo dei prodotti di glutine e anche del senza glutine e un aumento del consumo di bevande vegetali, quali delle... Beh, devo dire che i medici in questo campo sono entrati prepotentemente, insomma, negli ultimi anni, e quindi anche merito loro, credo, di aver dato delle informazioni corrette al di là di internet. Sul senza glutine sono d'accordo sulla moda, molto spesso ancora viene confuso il cibo senza glutine come un cibo dietetico, in realtà non è un cibo per dimagrire, ma e quindi su questo credo che si giochino un po' di cifre che potrebbero trovare un assestamento nei prossimi anni quando riusciremo a dare dei messaggi un pochino più giusti anche legati al cibo senza glutine. Professoressa Franchi, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata e speriamo di conoscerla presto di persona. Buon grazie lavoro. Alla prossima, arrivederci. Dottor Gualerzi, ma la domanda che vogliamo farci oggi è, in mezzo a tutti questi cambiamenti, stiamo guadagnando salute? E invito i nostri ascoltatori a raccontarci se e come è cambiata la loro dieta, quali alimenti hanno scoperto, riscoperto, quali hanno limitato, ridotto, quali consumano con maggiore frequenza. D'altronde siamo a Cibus e parliamo di abitudini alimentari, di modi, di nuove tendenze di salute. Infatti il cibo è tradizione, condivisione, piacere, convivialità, amicizia, ma è anche e soprattutto salute. E dottor Gualerzi, io voglio parlare con lei del metodo che lei ha ideato, che la dieta super salute è un metodo che insegna a recuperare benessere, energia e forma, soprattutto senza costringerci a inutili sacrifici, ma solo sfruttando le proprietà dei cibi, imparando a consumarle nei modi, nei tempi giusti, tenendo conto della nostra unicità, perché questo e mi è piaciuto del suo metodo, lei lo descrive bene nel suo libro. Siamo tutti diversi, lo stesso cibo su di me ha un effetto diverso che può avere rispetto a Paolo, che oggi è in regia e in assistenza, o a Paolo Marco Lombardo, che ci ha accompagnato qua in questa trasferta. Dottor Gualerzi, quindi l'unicità, il cibo è un carburante, ma ciascuno poi, no? Sì. Funziona in modo diverso. Diciamo che lo stile di vita influenza molto i nostri ormoni e quindi influenza anche il modo, le interazioni che abbiamo col cibo, quindi lo stesso cibo influisce in modo molto diverso nelle persone a seconda dello stile di vita che hanno, e questo si vede anche macroscopicamente dall'aspetto esterno, da dove appunto accumuliamo peso. E devo dire che sull'alimentazione appunto c'è molto interesse, e qui dobbiamo dire l'alimentazione deve crearci molto interesse per il gusto, ma anche per regalarci salute. Quindi la domanda appunto che ci dobbiamo fare è: veramente questo interesse porta più salute o porta semplicemente una moda? Ecco, bisogna presidiare questo ambito, perché è fondamentale che insieme all'interesse per il cibo, all'interesse per il cibo giusto, ci sia anche un interesse per la salute. Un medico è interessato a questo, io personalmente sono interessato a questo, io ho scritto un libro e mi sono occupato di alimentazione solamente per questo, non per fini estetici ma per fini, diciamo, salutistici. E soprattutto per dare energia e piacere alla vita. Allora noi, subito dopo le informazioni del nostro GR, lavoreremo, dottor Gualerzi, proprio a sottolineare che siamo unici, su un parametro che lei ha utilizzato, che è l'aspetto morfologico, no? Il nostro grasso si distribuisce in maniera diversa, e allora invitiamo i nostri ascoltatori a dare una forma al loro corpo. Siete più mela o pera? Io aggiungerei anche melanzana, cioè avete una distribuzione del grasso che si concentra nella pancia, quindi, oppure invece più sulle cosce, o ancora si distribuisce effetto melanzana un po' in modo equilibrato un po' ovunque. 800 24 00 24, da Cibus continuiamo a parlare di Cibus e di cibi, e soprattutto della forma, no, del nostro corpo, che può assomigliare a una pera, una mela o una melanzana, ma raccontateci voi dopo il GR. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Questa settimana storie molto interessanti ma spesso molto controverse al falco e il gabbiano. È diventata famosa per essere la moglie di Kurt Cobain, la vedova nera del rock, Courtney Love. Un grande eroe o un cinico cialtrone? Lo scoprirete assieme a noi. Raccontiamo il generale Custer. La meravigliosa voce e la grande avventura di Francesco Di Giacomo col Banco del Mutuo Soccorso. Il pelle rossa che fece vincere l'America e che dall'America fu tradito, James Thorpe. Ha interpretato personaggi indimenticabili, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano, Mario Brega. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30, il Falco e il Gabbiano. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da... Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. cuore e denari. E siamo tornati insieme in diretta da Parma per Cibus Puntatone. Siamo al Salone Internazionale dell'Alimentazione, quindi parliamo di cibo, di alimenti, di superalimenti. Però vi voglio dare qualche numero che sottolinea ancora di più l'importanza di questa manifestazione. Pensate che sono 3.000 gli espositori e coprono un'area di 130.000 metri quadri, ma non solo. Secondo le stime sono 70.000 i visitatori attesi, di cui 15.000 arrivano dall'estero. Quindi se volete venirci a trovare, noi siamo al padiglione 7, sono qua che tutti me la suggeriscono, ce la faccio, C121. Wow, ho mangiato bene, dottor Gualersi, un po' di fosforo. Allora, abbiamo il dottor Massimo Gualersi, ma ad Alimanforte è arrivata anche Silvia Strozzi, che salutiamo, naturopata. Buongiorno, esperta di cucina naturale, ha scritto tantissimi libri, ha dato anche una mano al dottor Gualersi per questa grande fatica, la dieta super salute. E allora noi ci mettiamo subito al lavoro. E se avete dubbi, domande, richieste, 800 24 00 24, dottor Gualersi, abbiamo detto ognuno di noi è diverso, puntiamo quindi sull'unicità, eh? Sì. Il cibo fa degli effetti diversi, a me e alla dottoressa ad esempio Strozzi, io distribuisco il grasso in un modo, lei in un'altra. Siamo arrivate a dire che molti di noi possono in qualche modo assomigliare a una pera, a una mela, oppure io ho aggiunto una melanzana. Che è giusto. È giusto. È giustissimo. Allora, abbiamo sempre dal suo libro rubato una sorta di test, di autotest. Lo sentiamo, intanto se vi riconoscete chiamate subito, tra poco consigli per pele, mele, melanzane che riguardano la dieta, l'attività fisica, eventuali integratori, gli errori da evitare e le buone abitudini da prendere. Qual è il vostro morfotipo? Prima di cominciare, seguite le seguenti istruzioni. Mettetevi in posizione eretta, a piedi uniti, davanti allo specchio, in una stanza ben illuminata. Osservate la corporatura generale del vostro fisico, in particolare le spalle, il seno, il torace, la vita, i fianchi, le cosce, le gambe e le ginocchia, fino alle caviglie. Disegnate mentalmente il profilo del vostro corpo appena osservato. Soprattutto considerate la larghezza e le proporzioni delle spalle, della vita e dell'addome, delle cosce, delle ginocchia e delle caviglie. Sulla base di queste osservazioni, scegliete la figura che assomiglia di più alla vostra. Allora, siete riusciti a individuare pera, mela, melanzana, poi non ci sono i tipi proprio puri, ma dottor Gualersi, iniziamo dalle mele. Il riferimento al frutto la dice lunga, addome tondeggiante, busto sviluppato, gambette sottili, come dico io da merlo, questo è l'identikit. Che cosa c'è da aggiungere però? Lei ne parla molto bene nel suo libro. Sì, c'è da aggiungere che non è casuale il fatto che il grasso si vada a depositare in un posto piuttosto che in un altro, quindi quando diciamo abbiamo una deposizione di grasso più a livello addominale, diciamo che studiamo il fatto che queste persone hanno ormoni circolanti diversi rispetto a quelli che sono mediamente gli altri, diciamo, ormoni. E diciamo che in questo caso troviamo un aumento del cortisolo, un aumento dell'insulina, che sono i due, se vogliamo, ormoni imputati ed essere che si alzano quando mangiamo male, e stiamo parlando dell'insulina, si alza quando mangiamo i cibi troppo raffinati, oppure il cortisolo si alza quando viviamo una vita piena di stress o dormiamo poco. Abbiamo parlato anche prima di sonno, abbiamo visto che noi italiani siamo dei dormitori appropriati quasi, però normalmente chi accumula pancia spesso dorme poco ed è molto stressato. Quindi la pancia è frutto di un aumento di questi ormoni che vanno proprio a far depositare il grasso a questo livello. Quindi abbiamo individuato gli ormoni colpevoli, diciamoli, chiamiamoli con il loro nome. Adesso ci racconti un po' quali sono gli errori più tipici delle mele. Gli errori più tipici delle mele sono appunto dormire poco. Essere molto approcciare una sana alimentazione a spizzichi e bocconi, quindi fare delle diete fugaci. Mi metto a dieta, poi infatti no, sono, eccetera. sono persone che rispondono molto bene normalmente alla dieta, quindi perdono rapidamente peso, ma lo riacquistano perché tendenzialmente non cambiano il proprio stile alimentare. Quello che voi chiamate effetto yo-yo. Effetto yo-yo. Mangiano spesso junk food, ma non tanto per scelta, ma per velocità. Quindi sono persone che mangiano molto velocemente, che non si soffermano troppo su quello che devono mangiare, spesso saltano i pasti. Ed ecco fatto che l'insieme di tutte queste cose, magari unito anche al fatto che si fa poco sport, fa accumulare quel grasso che tra l'altro non è solamente inestetico, ma è anche purtroppo molto difficile da far andare via e genera infiammazione sistemica e quindi la base per sviluppare malattie. State lì, perché adesso poi abbiamo detto tutte le peggio cose, come si dice, quindi perché ingrassate, quali sono gli ormoni che vi fanno venire la pancia e non dormite, insomma ve le abbiamo suonate, ma adesso poi il dottor Gualerzi naturalmente vi dirà che cosa fare, una dieta proprio specifica per le mele, e la dottoressa Strozzi ci racconterà se ci sono degli alimenti, dei superalimenti, ne stanno muovendo, abbiamo riscoperto, ne parleremo tra poco, sono tornati i semi, fantastici, no? Perché aggiungono molti nutrienti importanti, le nostre tavole si arricchiscono, i nostri piatti di spezie, parleremo di queste, ma andremo proprio a calibrare in base al tipo. Passiamo alle pere, al grasso. Il grasso sta nella parte inferiore del corpo con particolare piacere a sedimentarsi nelle cosce, nei glutei, nella zona lombare, insomma si affeziona. Dottor Gualerzi, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando principalmente di donne che sono anche abbastanza attente alla propria forma fisica, ma proprio per questo commettono degli errori, e il primo errore è quello di avere delle alimentazioni troppo restrittive, tanto che molto spesso in queste persone si riscontra una circolazione lenta, ma anche figlia del fatto che mangiamo poco, che mangiano poco, e quindi si vengono a essere ridotti in circolo gli ormoni che bruciano, e quindi come appunto l'ormone tiroideo, che sappiamo essere presente in tutte, anche quegli integratori che vanno a spingere un po' il metabolismo. Ecco che questa eccessiva attenzione alla dieta, magari spinta fin da quando si è adolescenti, porta sostanzialmente a un abbassamento del metabolismo, certo, che tende a far accumulare più grasso in questa zona. Attenzione quindi, sì, perché noi donne diciamo spesso sono magra, vedi, non ho pancia, però ciò, noi lo diciamo un po' il culone, no? E non va giù. E allora dieta. E tra l'altro purtroppo oggigiorno questa dieta è aggravata dal fatto che per perdere, e o teoricamente la risposta sarebbe togliere i carboidrati e quindi mangiare più proteine, spesso più proteine animali, che vanno ulteriormente ad infiammare, e quindi sappiamo che il grasso a livello delle glutei e delle cosce è proprio tipico un grasso infiammato e non va altro che peggiorare questo tipo di alimentazione, che in realtà viene invece... Quindi lei quando mi dice grasso infiammato vuol dire che abbiamo pure la cellulite, dottor Gualerzi, diciamola, chiamiamola pure così. Allora, quali sono gli errori tipici che le pere fanno per liberarsi dei chiletti in più? L'abbiamo detto, si mettono a dieta. Gli errori principali sono quelli di mangiare poco, soprattutto nelle prime ore della giornata, quindi diciamo che ci si sveglia, si fa una colazione troppo leggera, si mangia poco a pranzo, poi non è che si mangia eccessivamente a cena, ma diventa inevitabilmente il pranzo principale. Questo diciamo è un sovvertimento di quello che è la cronobiologia classica che si dovrebbe avere, e questo non fa altro che perpetuare. In più, spesso la risposta di queste donne, perché principalmente sono donne, è quella di accanirsi con degli esercizi che fanno che attivano la muscolatura inferiore del corpo, cioè quella delle cosce, e non vanno altro che aumentare di nuovo il tono e quindi a sembrare ancora più sproporzionate a pera. Quindi anche lì c'è un movimento apposta da fare. Senta, ma lei si è un po' accanito con tutti gli errori che facciamo noi donne, anche gli uomini ne fanno parecchi, no? Che le buttiamo più sulle mele. Noi siamo peggiori di voi sempre. Ah, comunque, ok, allora già mi sono è di nuovo amico. E per le melanzane, un mix tra pera e mela? Diciamo che le melanzane mixano un pochino le due cose, quindi da una parte hanno un'alimentazione un po' irregolare come distribuzione dei pasti, si affidano spesso ai classici 5 veleni bianchi, che sono i cibi sostanzialmente più raffinati, latte, latticini, farine, un po' quello che ci troviamo casualmente sulla tavola, quindi non commettono nessun errore particolare, ma la somma di tanti piccoli errori, si lasciano diciamo guidare dal caso un po', quindi se oggi ci lasciassimo guidare dal caso dal punto di vista alimentare e ci facessimo scegliere dal cibo invece che scegliere il cibo, ecco, il risultato molto spesso è questo. Allora scegliamolo noi il cibo, e anzi ce lo suggerisce lei, 4 mosse di super salute per le mele. Io dico 4, ma se ne ha 3 o 5 mi piace lo stesso. Dottor Gualerzi, abbiamo descritto il profilo della mela, abbiamo sottolineato quali sono gli errori. Che cosa si deve fare? quando la nostra forma è simile ad una mela, per ritrovare, a me piace dire, ritrovare una forma, però anche il piacere di stare bene, di stare con il proprio corpo. Lei nel suo libro parla molto di consapevolezza. Ecco, vogliamo mandare questo messaggio, io sinceramente cerco di mandarlo tutti i giorni, che mangiare bene non vuol dire fare delle rinunce, non vuol dire mortificarsi, non vuol dire portare in tavola delle cose senza appeal, non avere il piacere di uscire con gli amici. Bisogna ritrovare il piacere di mangiare delle cose buone per stare bene, per dare il meglio di noi, per coltivare la nostra salute, che è una salute che è fisica, psichica, emotiva, relazionale. Dottor Gualerti. E soprattutto, aggiungo io, non bisogna cambiare radicalmente le proprie abitudini solamente perché in questo momento ne stiamo parlando, ma bisogna trasformarle lentamente. Solamente attraverso la trasformazione, che diventa quindi consapevolezza, si riesce a modificare in modo costante il nostro stile di vita. Diciamo che se dobbiamo suggerire qualcosa per le mele, suggerirei due o tre cose. Ok, io prendo appunti. Prendi appunti. Allora, il primo è andare a letto alla sera non troppo tardi, e quindi riposare. E il secondo è quello... Perché sostanzialmente durante la notte, soprattutto nelle prime ore della notte, si producono quegli ormoni come il GH, che va a contrastare un po' l'azione del cortisolo, e quindi solamente attraverso una notte passata bene riusciamo a produrre queste sostanze. Quindi la notte brucia un po', la notte il sonno fa dimagrire, dormita bene, concetto, dormita quindi bene. Andate a dormire. La seconda è fare attività fisica, se possibile, a ritagliarsi anche basta mezz'oretta alla mattina prima di fare colazione, dopo aver bevuto un po' di acqua, perché ricordiamo sempre che l'acqua è fondamentale per fare energia, quindi per generare energia, per aumentare il metabolismo, e quindi fare un po' di attività fisica non troppo intensa la mattina prima di colazione. Può essere giro dell'isolato, a passo sostenuto, può essere una corsetta, un po' di ginnastica a casa. È sufficiente aumentare... Un ballo, mettiamo la musica, balliamo intanto che prepariamo la colazione, che mangiamo dopo, perché sì, noi dobbiamo essere digiuni. Lei mi ha detto l'acqua, però lei nell'acqua, nel suo libro, dice di aggiungere delle cose. Io dico di aggiungere qualche antiossidante naturale, che può essere o il limone, o ancora più studiato negli ultimi anni, l'aceto di mele biologico, okay, che ha un'azione attraverso l'acido acetico e l'acido piruvico, diciamo, di migliorare il metabolismo dei grassi, e quindi in quella particolare fase del giorno, quando ancora abbiamo, diciamo, un metabolismo più prono a ossidare i grassi, ecco che questa aggiunta di queste sostanze possono favorire. Dati sì, una mossa. Sì. Il terzo consiglio per le mele, prima di passare alle pere e poi i super alimenti della dottoressa? Il terzo consiglio stravolgerà un po' le convinzioni, ma è quello di poter mangiare, a differenza di quanto viene detto secondo la cronobiologia classica, anche un po' di carboidrati. Logicamente parliamo sempre di carboidrati diciamo complessi, quindi ad esempio di cereali integrali, principalmente in chicco, comunque più naturali possibili, diciamo alla sera. Normalmente tendiamo a mangiare e classificare invece proteine alla sera e carboidrati a pranzo, invece in questo caso stravolge. Ma perché? Perché questi carboidrati possono, attraverso un'azione diretta sulla serotonina, abbassare il cortisolo e quindi spegnere un po' l'iperattività tipica di questo fenotipo, di questo morfotipo, e quindi consentire una notte migliore. Un po' di carboidrati alla sera per ridurre la pancia. Andiamo alle pere? Allora, le pere, diciamo anche qui diamo qualche consiglio. Il primo è quello di svegliarsi e mettere in moto il metabolismo. Cosa si intende per mettere in moto il metabolismo? Dare energia. Siamo fatti talmente tanto bene che quando non diamo cibo, quando non stimoliamo il nostro metabolismo, inizia a risparmiare. Quindi fare una colazione ricca di carboidrati complessi, di acidi grassi e di tutti i nutrienti necessari per sbloccare il metabolismo. Adesso vado dalla dottoressa, cosa vuol dire tutte queste cose? Una colazione che va bene, una colazione super salute, che cosa mettiamo sul tavolo, dottoressa? Allora, possiamo utilizzare i centrifugati, sì, che sono veramente sprigionano tantissima energia, e quindi adesso che viene la bella stagione, quindi abbiamo la possibilità di avere frutta di stagione, verdura di stagione anche colorata, profumata, quindi certo, è fantastico poter fare il centrifugato. Poi c'è una fantastica colazione che io ho sempre utilizzato, che è la colazione Budvig, che è una colazione preparata preparata con uno yogurt, dei fiocchi di avena o dei fiocchi di cereali, come uno preferisce. Sì. Uno yogurt può essere anche vegetale, non è detto che sia animale. E poi dei semi. Dentro ci va l'olio di lino oppure l'olio di canapa, adesso che si sta, diciamo, promuovendo l'utilizzo, perché è veramente molto bilanciato negli acidi grassi, sia omega 3 che omega 6. E poi si possono aggiungere un pochino di limone, anche questo per bilanciare appunto l'acidità e l'alcalinità nel nostro organismo, della frutta fresca e un pochino di frutti secchi, quindi semi, uno è pronto per affrontare semi il mondo. Di mandorle, un po' di mandorle, un po' di semi di girasole, un po' di semi di zucca, e quindi c'è dentro tutto. Uno arriva a pranzo che è veramente con un indice glicemico basso, si fa la sua giornata ed è fantastico, è pronto per affrontare la giornata. Quindi regola numero uno, questa colazione come ci hanno descritto in modo preciso e puntuale. Regola numero due per le pere? Regola numero due per le pere è sostanzialmente quello di mangiare alla sera pochi carboidrati, e quindi invece in questo caso di mangiare più proteine, se possibile proteine di origine vegetale. È un guaio se una pera e una mela vivono insieme. È un guaio, però diciamo che... Sposatevi con pere, mele con mele, e sceglietevi anche il moroso in base alla sua forma. Oppure si sposano perché dopo chi che si somiglia si piglia. Quindi, oppure si sposano dopo aver ristabilito... Dopo il super salute, quindi invece la pera mangia più le proteine alla sera e non i carboidrati. E l'altro aspetto mela. Sull'attività fisica... Mi piace sottolineare di non accanirsi con movimenti o con attività che potenziano gli arti inferiori, e invece di tonificare la parte superiore del corpo, tenendo conto un principio che spesso sfugge. Il muscolo tonico, quindi più massa muscolare abbiamo, più si innalza il metabolismo basale. Se abbiamo detto che il problema delle pere è avere un metabolismo abbastanza basso, diciamo che possiamo contrastarlo e combatterlo tonificando il muscolo, quindi mollando l'attività aerobica, o comunque non facendo solo attività aerobica ma facendo attività di tonificazione o quei classici circuiti che a noi piacciono molto, perché il metabolismo basale è direttamente proporzionale alla alla massa magra. Quindi vuol dire pesi, circuiti? Vuol dire pesi, ma vuol dire anche esercizi a corpo libero. Oggi va molto di moda queste sorte di ginnastiche che facevano anche i Marines, quindi quello che viene chiamato boot camp o attività funzionale. Bastano, diciamo, degli elastici e un bastone per tonificare il muscolo e aumentare il metabolismo. Ultimissimo punto che mi piace dire è un po' di integratore, diciamo che in questo caso ci si può aiutare anche con l'acetilcarnitina, che è un integratore naturale che facilita molto la lipolisi, quindi sostanzialmente brucia i grassi, quindi migliora il metabolismo dei grassi. Normalmente il nostro metabolismo è bravissimo a bruciare gli zuccheri, è un po' meno competente nel bruciare i grassi. Ci sono degli enzimi che facilitano il trasporto dei grassi nei mitocondri e ne facilitano l'ossidazione. Mi ripeta il nome, mi dica dove si trova? Acetilcarnitina, sono proprio degli integratori che si possono prendere anche in boccetta. Ecco, in però invece alle mele, lei ha fatto una preferenza per le pere, perché alle mele invece di integratori non ne hanno date. No, le mele, una delle piante che viene anche, che discutiamo molto nel libro, è una pianta adattogena, che è la rhodiola rosea. Che cos'ha questa rhodiola rosea? Oltre a ridurre un pochino il grasso viscerale, toglie la fame nervosa. L'emblema del grasso viscerale a livello della pancia è colui che mangia in modo molto vorace, con questa fame nervosa, senza rendersi conto nemmeno di cosa ha mangiato. La rhodiola rosea è una pianta adattogena che toglie appunto la fame nervosa. Allora, pere, mele, vi abbiamo sistemati. Naturalmente Laura Vanossi ritaglierà questi interventi e li metteremo sulle nostre pagine. Tra poco con la dottoressa Strozzi, subito dopo i mercati, andremo direttamente in cucina. Parleremo di semi, parleremo di spezie, di erbe aromatiche, aggiungono naturalmente gusto ma anche salute, però bisogna saperli utilizzare bene. Ad esempio, voi li tritate i semi, li tostate, li buttate così, insomma raccontateci che cosa ne fate. Ma non solo, parleremo poi anche dei nostri bambini. A tavola con i nostri bambini, con una super esperta che metterà il suo gruppo a disposizione degli ascoltatori di Cuore Denari, seguendoci anche su Facebook. E poi, per chiudere, una ricetta di un grande chef proprio in occasione di Cibus, per festeggiare il nostro arrivo. Deborah arriverà domani. Comunque, Cuore Denari qui dalla Fiera di Parma. A tra poco, dopo i mercati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. cuore e denari. Siamo tornati insieme, siamo a Cibus e dopo aver parlato delle tendenze alimentari, dopo aver parlato di morfotipi, qual è l'alimentazione giusta per le pere, per le pelle e per le melanzane, che come devono distribuire gli alimenti, parliamo in realtà di questi che stanno diventando quasi superalimenti, o almeno così li riteniamo, semi e spezie. Dottoressa Strozzi, lei ci aiuterà ad utilizzarli in cucina perché sicuramente aggiungono del gusto, penso alle spezie, i semi li aggiungiamo alle insalate, ai nostri pani, ma non sempre li utilizziamo nel modo corretto. Iniziamo dal grande capitolo dei semi. Sì. Quali ci suggerisce? Allora, semi di sesamo sono fantastici, molto famosi perché li troviamo ormai attaccati al pane. Certo. Esatto. Però il seme di sesamo così piccolino e intero, diciamo che fa una funzione di lavoro intestinale, quindi sì, ci aiuta a migliorare la motilità intestinale, mentre se noi vogliamo utilizzare tutte le proprietà che si possono sprigionare dai semi, la cosa più importante è quella di tostarli leggermente e poi frullarli, in modo che il nostro organismo, quando li mangiamo, non certo, deve fare nient'altro che assimilare calcio. Prima si tostano e poi si frullano. È una regola che vale per tutti i semi o solo per quelli di semi sesamo? Semi di lino anche vanno benissimo. Anche quelli di zucca? Semi di zucca, sempre meglio frullarli. Però i semi di zucca sono un po' più grandini, quindi certo, quando noi li mettiamo in bocca li mastichiamo e quindi diciamo che riusciamo comunque a sprigionare tutte le proprietà che sono all'interno. Mentre i semi di sesamo, anche se noi li cerchiamo di sono mangiare, troppo piccoli. È come la capsaicina che è contenuta nei semi del peperoncino. Se noi mangiamo un semino del peperoncino così, arriva nel nostro stomaco e se ne va. Mentre se noi lo abbiamo, diciamo, triturato, noi possiamo usufruire di tutte quelle che sono le proprietà del peperoncino, certo, che è un antiossidante fantastico e che è veramente una panacea. Senta, ma ho letto sì, che fa bene anche in un libro, a caso, la dieta super salute, ho detto che è consigliato anche per rendere più forti i capelli il peperoncino, è vero? Le spezie hanno veramente tantissime sì, proprietà, dallo zenzero, che anche appunto nel libro abbiamo citato, come anche la curcuma, che adesso è venuta davvero alla ribalta, perché anche la curcuma ha tantissime proprietà all'interno, non solo antineoplasiche, quindi anticancerogene, ma anche antiossidanti. Certo. E addirittura amica della salute del cervello, lo sì, mantiene giovane. Sì. Ecco, ma la curcuma è un antinfiammatorio. Noi l'aggiungiamo a fine cottura. Allora, oppure si possono fare tantissime cose. Sì, qual è il modo migliore? Allora, se a uno piace molto la curcuma, sì, la può mettere tranquillamente al momento in cui condisce i cereali oppure nel momento in cui fa la sua preparazione. Però se uno magari non ha tantissimo, diciamo, non ama tantissimo questo tipo di gusto, può anche metterne un cucchiaino nell'acqua dove fa bollire la pasta, sì, butta la pasta assorbe tutti i principi, diventa gialla, quindi bellissima. Anche la pasta con un esatto, filo di olio fai una bella figura. Esatto. Sembra e quindi che... anche per, ad esempio, se uno vuole metterla a un bambino, una persona, diciamo, che non ama tanto questi gusti un po' forti, in questo modo può utilizzare anche tutti i giorni la curcuma. Un altro modo per utilizzare la curcuma tutti i giorni è quella di preparare il golden milk. Il golden milk è un antinfiammatorio notevole e che può anche aiutare a sciogliere il famoso grasso di cui il nostro... Qua ci vuole la ricetta. Allora. Sì, va bene. Allora, per fare il golden milk bisogna prendere 60 grammi di curcuma, metterli in un bicchiere d'acqua e farlo, diciamo, sciogliere in un pentolino a bagnomaria in modo da formare una pasta di curcuma. Pasta, questa okay, pasta di curcuma dura 21 giorni, quindi si mette in un barattolo di vetro e si mette in frigorifero per 21 giorni. Abbiamo la nostra pasta di curcuma, polvere di curcuma e acqua. Dopodiché alla mattina o quando decidiamo di farci il nostro golden milk, prendiamo un bicchiere di latte vegetale, aggiungiamo un cucchiaino di olio di mandorle, il nostro cucchiaino di pasta di curcuma e un pochino di, se uno vuole, di miele o di zucchero di canna. Un cucchiaino di questa della pasta? Sì, un cucchiaino raso appena appena, insomma, non è che dobbiamo certo, fare. E questa, diciamo, questa bevanda, che prende appunto un colore dorato, è fantastica per le articolazioni, quindi per sfiammare le articolazioni e anche proprio per riattivare il metabolismo e sciogliere i grassi. 21 giorni e uno sta benissimo. Grazie, ma che bella ricetta, dottoressa Strozzi. Sicuramente sarà una delle ricette più cliccate dei nostri ascoltatori. Bene, domani la provo anch'io, anzi la posterò anche è una molto foto. Facile, infatti. Grazie, dottoressa Strozzi. So che lei deve scappare. Sì. Il dottor Gualersi lo teniamo in ostaggio, pronto a rispondere alle vostre domande all'800 24 00 24. Grazie e complimenti. Ci mancherebbe. Abbiamo anticipato che avremmo parlato di bambini, no? E sono i più cicciottelli d'Europa. L'obesità infantile, in particolare nei paesi occidentali, rappresenta un problema in crescita di notevole rilevanza sanitaria e sociale. Infatti la letteratura scientifica ha trovato una relazione molto stretta tra situazioni di sovrappeso e obesità nell'infanzia e in età adulta. Negli ultimi 20 anni, lo sappiamo bene, ce lo continuano a ripetere, il numero di bambini obesi è aumentato, tanto che si parla di globesity. Le cause le conosciamo bene, ce le ha già anche anticipato il dottor Gualersi, valgono per i bambini e anche per chi bambino non è più. Ci concorrono sicuramente i geni, la sedentarietà, le abitudini alimentari scorrette, ma per i nostri bambini noi vogliamo trovare una soluzione, vogliamo che vivano a lungo e bene, forti e felici. Allora, oggi voglio parlarvi di uno spin-off che ha riunito professionisti con diverse competenze e abitudini proprio con l'intento di diffondere le conoscenze per un corretto stile di vita alimentare e quindi contribuire a ridurre le diverse problematiche legate alle abitudini alimentari sbagliate facendo giocare i nostri bambini. Voglio presentarvi subito Valentina Monteverdi di Madegus, Maestri del Gusto. Esatto. Benvenuta. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, chi siete voi Maestri del Gusto? Allora, noi Maestri del Gusto siamo una figura professionale nuova, praticamente insegniamo l'educazione alimentare a 360 gradi, ci occupiamo di bambini della scuola dell'infanzia, passando per adolescenti, genitori, per arrivare fino ai nonni e nipoti. Ah bene, quindi sì, sì, copriamo tutti. E, il nostro metodo è un metodo un po' particolare, perché per insegnare appunto la corretta alimentazione, che non è sempre facile, perché no, bisogna dare nozioni appunto specifiche, nozioni difficili e in alcuni casi potrebbero risultare noiose, noi utilizziamo dei giochi, quindi li strutturiamo, li realizziamo e li portiamo ai bambini. E i nostri laboratori hanno temi specifici, per esempio l'importanza dell'acqua. Come ricordava il dottor Gualersi. Che l'acqua si assume non solamente bevendo ma anche mangiando. Certo. E quindi quali sono gli alimenti dove troviamo più acqua e noi glieli insegniamo con il nostro bellissimo Omino H2O e loro imparano appunto quanti bicchieri d'acqua dovrebbero bere ogni giorno e quali alimenti dovrebbero mangiare per comporre il loro menù acquoso. Ecco, sono delle domande che sicuramente noi genitori ci siamo posti. Quante acqua devo dare al mio bambino? Quanto deve bere? Berrà tanto, berrà poco? Qual è la porzione ideale? Se mangia la pasta, 35 grammi, 50, 2 pugni di riso? Quante verdure? Le 5 porzioni di frutta e verdura per un bambino, a che cosa corrispondono? Tutte queste domande rispondono naturalmente gli esperti di Madegus, esatto, ma che risponderanno anche i vostri dubbi. Quali esatto dubbi si aspetta? Perché metteremo naturalmente un post sul pagina Facebook e la dottoressa Monteverdi insieme al suo gruppo risponderà alle vostre domande, alle domande anche più banali che vengono naturalmente a noi genitori. Assolutamente. Io ho detto il numero dei bicchieri d'acqua, potrebbe essere una di queste, il quantitativo, la cosa di pasta, ma anche il dottor Gualersi è un papà, lui di domande non ne ha, ma sicuramente avrà del filo da torcere a convincere il suo bambino a mangiare le cose che lei esatto suggerisce. Esatto. Il gioco è un modo fantastico, sì, anche proprio cucinare in modo gioioso e giocoso, insomma, insegnare anche questi, trarre spunto da queste mode, di queste trasmissioni dove insegnano i bambini a cucinare, credo che sia un modo giusto, perché l'approccio al cibo è fondamentale per far gustare i bambini tutti gli alimenti, perché a quell'età è giusto che mangino tutto, che iniziano a assaporare tutto e che sviluppino un proprio gusto. Molto spesso ci si accanisce con un alimento perché si pensa sia salutare, in realtà basta girarci attorno per tornare poi a quello stesso alimento. Certo. Ecco. Allora, esatto, dottoressa Monteverdi, quali sono i risultati e i successi di cui andate fieri e che hanno fatto, per così dire, scuola? dove avete fatto proprio la differenza. Proprio due così. Allora, noi ogni anno riusciamo a vedere circa 8.000 bambini. Caspita. Quindi 8.000 bambini che partecipano alle nostre attività di Parma e provincia. Collaboriamo su Parma con un progetto enorme che si chiama GioCampus, che fornisce lezioni di educazione alimentare, lezioni di educazione motoria, che sono alla base di uno stile di vita corretto. E siamo riusciti a portare dal 21% al 12% i bambini che non facevano la prima colazione, che non consumavano la prima colazione, e siamo riusciti anche a diminuire il numero dei bambini obesi, portandoli dal 7% al 5%, quindi direi, insomma, che sono buoni risultati che ci spingono ad andare avanti sempre di più. E soprattutto ad esportare il vostro modello in altre realtà regionali, esatto, giusto? Esatto. Adesso cerchiamo di collaborare con la Liguria, con la Lombardia, proprio perché è un modello che si basa sulla scientificità. Noi alle spalle abbiamo l'Università degli Studi di Parma. E è un modello proprio testato, provato e valutato positivamente. Perché sì, i risultati ci sono. Allora, i bambini, lo sappiamo, l'abbiamo anticipato, sono un po' monotoni magari nei loro gusti, tendono ad avere difficoltà ad assaggiare delle cose nuove, oppure impazziscono solamente per un gruppo di alimenti, non ne vogliono altri. Ogni volta che tu proponi e dici guarda, mangia questo che fa bene, sicuramente vogliono la cosa diversa. Insomma, noi adesso andiamo a ci fermiamo, perché subito dopo le informazioni sul traffico, che diamo naturalmente puntualmente, la dottoressa Monteverdi darà consigli per i bambini inappetenti, per i bambini che sono invece di appetito un po' troppo forte, delle ottime forchette, e naturalmente vi aspetta poi sulle pagine di Facebook per rispondere a tutte le vostre domande. Cuore e denari. Vorendo cucù, Gigi na, I love cooking in the kitchen with you, mamma. Vorendo cucù, Gigi na, I love cooking in the kitchen with you, mamma. A tavola con i nostri bambini, ne stiamo parlando da Cibus insieme alla dottoressa Valentina Monteverdi di Madegus, i maestri del gusto. Insieme a noi anche Massimo Gualerzi, il dottor Massimo Gualerzi, autore della dieta Super Salute. Stiamo sistemando anche i bambini ci danno qualche problemino a tavola, i dubbi dei genitori sono tanti: mio figlio mangia sempre la stessa cosa, mio figlio non mangia né frutta né verdura, cosa fare? Ha assaggiato le carote, non gli piacciono, allora che cosa gli posso dare? Beve poco, mangia sempre il pane. Dottoressa, allora, notizie, curiosità, indicazioni per i genitori all'ascolto. Partiamo dai bambini inappetenti. Sicuramente aiuta a giocare con loro, preparare i piatti, eccetera, sì, però il tempo, lo sa, è poco, è anche poco. Le mamme lavorano e alla sera torna a casa alle 7 e mettere lì a fare, non è sempre possibile, si fa il sabato e la domenica, ma la settimana è lunga. Esatto. Quali sono i consigli che suggerite? Allora, innanzitutto bisogna creare un'atmosfera rilassante a tavola, perché i bambini lo capiscono e capiscono l'ansia del genitore, sia che il bambino non mangi, sia che il bambino mangi troppo. Non riempirgli troppo il piatto, magari utilizzare piatti più piccoli e non riempirglielo in modo esagerato, perché abbiamo l'ansia di dire deve mangiare assolutamente. No, lui ha la sua porzione, ricordiamoci sempre che le porzioni di un adulto non sono le porzioni di un bambino. Lui deve iniziare a capire il suo livello di fame e sazietà, quindi sarà lui poi che vi dirà basta, ne ho abbastanza. E si lascia. Esatto, e fatelo servire da solo, nelle giuste quantità. Servirsi da solo li responsabilizza molto, li fa crescere e li fa capire quanto devono e quanto possono mangiare. Parliamo dei bambini che sono delle buone forchette e si servirebbero delle belle cofanate di pasta. Le mamme magari sono preoccupate perché c'è questo tam tam, attenzione, no? Il sovrappeso nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza può essere, no, un fattore di rischio per l'insorgenza di malattie nell'età adulta, quindi sappiamo che dobbiamo non farli stare un po' attenti al peso del nostro bambino. Allora, qui assolutamente il problema di base è il poco consumo di frutta e verdura. Certo. Frutta e verdura, soprattutto la verdura prima di cena, sono degli ottimi più grossa fame. Esatto. Consumare cereali integrali, perché aumentano il senso di sazietà, oppure legumi, che aumentano il senso di sazietà. oppure utilizzare i piatti divisi in sezioni, quindi proporre il primo, il secondo e il contorno, in modo che quando il bambino raggiunge la sazietà specifica di un determinato alimento è libero di passare all'altro. Certo. Però sa che le porzioni sono quelle e quindi le visualizza. Esatto, e non portare la pentola in tavola, magari riempire i piatti in cucina e dire queste sono le porzioni, quindi queste bisogna consumare, perché spesso cosa succede? Nella pentola avanza qualcosa e per non buttarlo, non sprecarlo, si tende a mangiare molto di più. Quindi fate le porzioni in cucina e le portate a tavola.